d'amor. Belle, belle, turbando al riposo, Narcisetto a donzino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e gallante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio tonnesco color, quel vermiglio tonnesco color. Non ti avrai quel cappello, non ti avrai quei pennacchini, quel brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, belle belle turbando al riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Belle belle turbando al riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Ma guerrieri con ferbacco, gran mustacci stretto sacco, schiobo in spalla, scioppa al bianco, collo dritto, muso franco, e un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco acompante, poco acompante. Ed invece nel fandango, un amore saper il fango, per montagni, per balloni, con le neve e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i toni, all'orecchio fa fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non ti avrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad uncino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad uncino d'amor.